faccio che conta. Il mio modo di orientarmi in zone d'ombra, divorando tutto l'odio che mi affonda. Con il rap ritrovando qualità, proponendo alla mia età ciò che conta. Dal buio della mia eclissi rimbalzano suoni ed infrasuoni dagli abissi. Intrisi di stress, narcosi, pressione, limiti fisici, psichici, fisiologici. Il mio habitat è il blu, invisibile dai più. Mi nascondo dal mio sud contro la mia nemesi, affronto subconscio di me, full control. Più è buio e più mi addentro nell'elemento. Doppia H, doppio accanimento, sdoppiamento. La mia luce e la mia ombra, attendo che una delle due soccomba, imploda dentro me. È una zona inaccessibile, devi saperci vivere. Viverci diventa impossibile se non sai usare ciò che sei, ignorando ciò che sai. Preda sei per le mie mandibole. Il mio modo di orientarmi in zone d'ombra, divorando tutto l'odio che mi affonda. Con il rap ritrovando qualità, proponendo alla mia età ciò che conta. Il mio modo di orientarmi in zone d'ombra, divorando tutto l'odio che mi affonda. Con il rap ritrovando qualità, proponendo alla mia età ciò che conta. Spazio tra pagine, vuote pagine, astratte pagine, colme di lacrime acide, instabile, umore fragile. Comporre il mio modo di combattere ogni dì. This is the end of the beat on the sick phobia. Lascio la mia impronta su ogni singola poesia. Stay real, non basta la lucida follia. Non conta adesso, canta, mente spenta, vetri infranti. La mia impronta sogna e la mia stanza sembra una tomba. Esco e cerco zone d'ombra. Il mio modo di orientarmi in zone d'ombra, divorando tutto l'odio che mi affonda. Con il rap ritrovando qualità, proponendo alla mia età ciò che conta. Il mio modo di orientarmi in zone d'ombra, divorando tutto l'odio che mi affonda. Con il rap ritrovando qualità, proponendo alla mia età ciò che conta. Soddisfo ciò che resta del mio tempo, attendo nuovi stimoli che rendono il momento. Addormento il mio stress al suono di una chitarra. Suona nell'aria, non può ascoltarla. Adesso basta, cerco la quiete, qualcuno che mi siede accanto e mi sostiene. La mia musica mi parla e so ascoltare. Cibo per la mente e vitamine per il cuore. E quando scrivo sfido il buio come speaker dimo. Do importanza al che è più piccolo dei Lego e prego il tempo che non mi lasci troppo indietro. Chiedo aiuto a un foglio bianco e una biro. Scrivere passione la vivo. Scrivere è l'unica cosa in cui credo. E oggi scalda quantomeno queste immense giornate di gelo. E a ogni singolo passaggio si tinge il cielo.